Torniamo al mobility art immaginandoci però un movimento allargato, ampio, vasto e sensibile a queste tematiche, per cui sicuramente abbiamo la pressione, la contingenza della causa, dell'avvertenza che abbiamo che il 14 darà una risposta davanti la causa civile col comune. Abbiamo l'imminenza insomma della possibilità che vengano ai salari il cantiere, quindi c'è questa emergenza quello che riguarda il parco Besta, però invece la nostra è una proposta a tutta la città che infatti è stata accolta e quindi coordinata e condivisa da altre realtà che si muovono in città su questi temi. Anche perché il problema è, come dire, più ampio, no? È percepito anche per altre vertenze e altri progetti. Assolutamente, lo striscione con cui apriremo sarà appunto quello di cui si diceva prima, contro le opere inutili, dannose e imposte. Inutili perché un esempio sono le scuole Best, ma ce ne sono tanti altri in città, in questo modello di città che stanno proponendo. Inutili perché appunto c'è una scuola già in piedi, basterebbe strutturare e si spenderebbero meno soldi. Dannosa perché fa dei danni all'ambiente e quindi la nostra avvertenza anche di fronte a un giudice parla della tutela della salute. Tagliare degli alberi, non me li invento io, è quasi ovvio doverlo raccontare. Crea dei danni alla salute delle persone, quindi in questa zona fortemente antropizzata crea ancora più danni in termini di assorbimento di CO2, di polveri sottili e di mitigazione delle temperature. Imposta perché, come via via ormai sta succedendo in tante parti della città, in tanti ambiti, anche quello della socialità, della condivisione degli spazi, del modo di vivere che i bolognesi possono trovarsi di fronte, ci sono delle scelte imposte che non coinvolgono la cittadinanza, nonostante si continua a sbandierare che siamo una città fortemente partecipata con tutti i processi di partecipazione stabiliti, organizzati dal comune, dove si va solo a discutere come compensare i danni costruiti da questa amministrazione. Torno un attimo alla questione dei costi, perché appunto sul progetto Besta si spenderanno un sacco di soldi che voi dite potrebbero essere usati per portare comunque in classe energetica A quell'edificio. Certo. Sicuramente la tecnologia attuale ormai è sotto gli occhi di tutti, quella scuola potrebbe essere ristrutturata, non ha subito danni eccessivi, anzi di fronte a una stima post terremoto era una delle scuole che aveva retto meglio anche alle sollecitazioni, quindi è una scuola non così disastrata, sicuramente una scuola vecchia che ha bisogno di ristrutturazione, si potrebbe ristrutturarla con un agio insomma dal punto di vista economico, un vantaggio molto forte, un risparmio di soldi che potrebbero essere utilizzati anche per intervenire su altre scuole. Noi abbiamo tantissime scuole a Bologna che hanno situazioni molto gravi di gestione insomma, ci sono tante scuole dove piove dentro. L'appuntamento di sabato, vogliamo ricordarlo? Sì, allora, l'appuntamento di sabato alle 14:30, piazza 20 settembre, partiremo in corteo da lì e passeremo al quartiere Bolognina, dove c'è un altro comitato, quello del nostro Topasso, quello di via Ferrarese, dove stanno abbattendo, cioè il progetto prevede che debbano abbattere degli alberi, quindi è un comitato con cui noi lavoriamo da tempo e quindi passeremo anche da lì, poi arriveremo al parco delle Besta, si concluderà il percorso, insomma girerà anche per il quartiere San Donato. Allora noi abbiamo lanciato da un po' di tempo, siamo a 23 libri, Biblioteche in Comune, è un'iniziativa tutti i giorni, qualcuno di noi chi anche vuole partecipare, portiamo un libro in comune che consegniamo al sindaco. Fino adesso il sindaco non si è mai reso disponibile a incontrare nessuno di noi. Questi libri sono testi che potrebbero essere utili per immaginarsi un'amministrazione diversa, per noi migliore. Quindi questa iniziativa continua a andare avanti, siamo tutti i giorni, appunto, ripeto, presentiamo dei libri di testo che hanno come argomento la partecipazione, insomma un lato molto dolente di questa città, e soprattutto l'ambiente, la tutela della salute dei cittadini.